va à Paris avec le Ferrari. Ce n'est pas la vie en rose, c'est une autre chose. On va chercher les femmes, ça va en étant. On vous serre les mains si vous ne promenez pas les champs. On y va à Paris avec le Ferrari. Ce n'est pas la vie en rose, c'est une autre chose. On va chercher les femmes, ça va en étant. Si vuoi promenare per le strade, 11 uomini e una donna in una stanza. Si tira sorte per guidare la resistenza. I primi tre che escono ci sparano alla tempia. Il quarto inizia il suo discorso e è ancora lì che parla. Il quinto lo fa fuori e si arraffa alla sua donna. A questo punto devo andare, che alle 9 è un funerale. Vichingo sul naviglio, perché Dio non prendi me. O meno dacci qualche dritta, che qui c'è aria di sconfitta. Anche solo un po' di denari, che facciamo un bel safari. Azzera tutto e dacci solo una Ferrari. Con chi va a Parigi, a Bette Ferrari. Se ne fa la via vos, se tu non puoi show. Non va a scegliere le fam, sa la metà. Non può essere me, si vuole vuole male show. Infermieri ed un'ostetrica in sala parto. Il test è positivo, sono incinto per la terza volta. Mi tocca ritornare dalla vecchia anestesista. Non voglio andarci solo, ho due amici nella lista. Confesso che questa volta mi sconquassa un tremore. Dovresti essere felice, mi sussurra un dottore. Che la liposuzione la passerà allo stato. Con i vampiri di questi tempi il sangue è terminato. Tastollati poi sui fianchi, non ho nulla da barattare. E a casa un topo, un gufo e due donne da sfamare. Con chi va a Parigi, a Bette Ferrari. Se ne fa la via vos, se tu non fai show. Non va a scegliere le fam, se va a vedere. Con bus e le men, si vuole muovere pare shampoo. Se tutti al capezzale, schiere di showman con la giacca sul pigiama, rassicurano la gente, la TV vi ama. Sotto fuochi d'artificio tornerete anche a sognare. Non bisogna perciò piangere, combattere o scappare. Ci saranno silicone, mozziconi e rutti per tutti. Addio per sempre, siete